io volevo dire solo una cosa. L'uomo si comporta così anche con i suoi simili, quando questi non hanno più la voglia per difendersi e la forza per difendersi, perché sono vecchi e inutili. Allora chi di noi è il cane realmente? Io non pare nudo scandalo, l'uomo sì, eppure in Parlamento c'è scritto vietato l'ingresso ai cani, vietato l'ingresso ai cani. Io non ho mai fatto una guerra, l'uomo invece tante, eppure è tu sola scritta. Attenti ai cani, attenti ai cani, attenti ai cani, attenti ai cani. Io non rubo niente, lizzo controcorrente, lascio che il mondo giri ed io lo guardo attentamente. Certe volte mi accorgo che gira solo per alcuni. Ogni uomo vede solo su di sé i tempi bui. L'uomo abbraccia tutto su di sé come le fish, ruba le anime degli uomini come degli ebrei a Schindler List. Io mi faccio i cazzi miei, rispondo solo se mi chiamano. Sarà forse questo il motivo per cui mi amano. L'uomo è yo-yo, come dici alla nonna mia, che Luca vi divo e poi se lo porta via. Cumia, cumia, menù già chiare paroli, e basta con sti detti che i cani sono soli. Ci facciamo compagnia con la nostra solitudine, non se siamo solo un punto tra una moltitudine. L'uomo fotte di tutto, esce con oro nelle mani, ma sui negozi c'è divieto d'ingresso per i cani. Io non chiedo tangenti in cambio del mio operato, quando cacco per la strada non vengo neanche calcolato. Eppure mi tocca andare in giro col guinzaglio, museruola e paura di essere abbandonato. Io non pare nudo scandalo, l'uomo è sì, eppure in Parlamento c'è scritto vietato l'ingresso ai cani, vietato l'ingresso ai cani. Io non bestemmio di chi non c'è, non faccio il nome, guardo sta pioggia scendere sotto sto cazzo di portone. Certe volte mi accorgo che bagna solo ad alcuni, ma ogni uomo vede cadere su di sé i goccioloni. L'uomo se la prende solo con chi non è presente, con un tizio su una croce con casalinghe scontente. Ho sentito che per molte persone è liberatorio, ma dopo non è bello mandare i tuoi figli in oratorio, oppure andare in chiesa la domenica mattina con il cappello pettinato e l'alito di naftalina, con le braccia che convergono sul cuore di un bambino costretto a lavare la faccia di Gesù bambino, costantemente eccitato, freso, preso e ripreso nella casa dell'offeso. Io mi sono arreso, gli astima denti stretti per non liberare concetti che potrebbero ledere la sensibilità di tutti gli insetti. Permetti, mannaia lama, così va meglio, il momento è catartico come diceva Flavio Reio. Io non parlo male, l'uomo invece a mo' di mazzare, ma sulla chiesa c'è divieto d'ingresso per i cani. Io non pare uno scandalo, l'uomo sì, eppure in Parlamento c'è scritto vietato l'ingresso ai cani, vietato l'ingresso ai cani. Io non ho mai fatto una guerra, l'uomo invece tante, eppure è tu sola scritta. Attenti ai cani, attenti ai cani, attenti ai cani, attenti ai cani. Chi di noi è il cane realmente? Noi. Chi di noi è il cane realmente? Noi. Chi di noi è il cane realmente? Noi. Chi di noi è il cane realmente? Noi.